Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. La nostra promessa è quella di raccontarvi, attraverso fatti di cronaca italiana e del resto del mondo, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 756, parleremo di orsi trentini, parleremo di mangrovie, parleremo del capitano Paul Watson, capitano della flotta di Sea Shepherd, parleremo anche di un manga antispecista. Ci sarà spazio per una ricetta vegana cruelty free e il montaggio musicale sarà a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Venerdì 26 luglio è stata la giornata internazionale delle mangrovie. Le mangrovie sono degli alberi particolari, sono piante in grado di catturare una quantità di anidride carbonica 10 volte superiore rispetto alle altre specie di alberi. Inoltre sono in grado di proteggere la costa da tempeste e inondazioni, di nutrire pesci e animali e di rendere l'ambiente circostante libero da radiazioni UVB. Allo stesso tempo però necessitano di condizioni particolari per poter sopravvivere. Richiedono infatti il contatto con l'acqua di mare e un clima tropicale. 351 milioni di mangrovie piantate e oltre 350.000 ettari di foresta costiera salvati. L'habitat di 134 specie animali, tra cui il gatto pescatore, il coccodrillo e la volpe di Blanford. Sono questi i risultati di un progetto, il progetto Delta Blue Carbon, il più ampio programma di riforestazione di mangrovie a livello internazionale, che è in corso da 9 anni nel delta dell'Indo, in Pakistan, a cui si aggiunge quello della cattura di quasi 2,5 milioni di tonnellate di CO2. All'anno. La stessa quantità di gas serra è emessa da un aereo di ultima generazione che fa il giro della Terra 3268 volte. Questo progetto ha anche reso possibile il miglioramento delle condizioni di vita di circa 43.000 persone. La conservazione delle mangrovie, infatti, è fondamentale anche da un punto di vista socio-economico perché proteggono le attività costiere delle comunità locali da maree e tempesta. In Pakistan, secondo un'analisi dei dati satellitari del 2022, le mangrovie sono triplicate tra il 1986 e il 2020. Ma vediamo quali sono stati i problemi. A livello mondiale, più di metà delle foreste di mangrovie è andato perso negli ultimi 50 anni. Le attività più dannose sono state quelle dell'acquacoltura dei gamberi, il disboscamento, il petrolio, il turismo e l'espansione urbana. Tutto questo ha minacciato i preziosi ecosistemi e la vita marina e le comunità che si affidano alle mangrovie per la loro sopravvivenza. Inoltre, i cambiamenti climatici stanno peggiorando la situazione. Mancano le conoscenze, mancano le leggi a protezione di questi ecosistemi. Inoltre, l'innalzamento del livello del mare aggrava questa sfida. Le mangrovie però sono importanti e non possiamo più trascurarle. Oggi si cerca di controbilanciare il declino di questi magnifici alberi con alcuni progetti di riforestazione che permettono un alto assorbimento di gas serra. A rendere noti questi strabilianti risultati è Up2You, una società che sostiene le aziende nel loro processo verso la neutralità carbonica. Ovviamente troviamo discutibile il fatto che per rendere neutra un'attività ad alte emissioni nel nord del mondo basti piantare una foresta di mangrovie nel sud del mondo. Tra l'altro, con molte probabilità che queste buone intenzioni poi nel tempo non diano grandi risultati sperati, perché molti progetti di ripristino delle mangrovie falliscono. non per mancanza di impegno, ma per la natura complessa degli ecosistemi delle mangrovie. Quindi il ripristino è intricato, come i loro sistemi radicali. Quindi le promesse delle società che si occupano di neutralità carbonica vanno tenute sotto controllo. Le foreste di mangrovie, per concludere, sono ecosistemi rari ma fondamentali per il benessere, la sicurezza alimentare e la protezione delle comunità costiere di tutto il mondo. Per questo l'UNESCO ha istituito il 26 luglio la Giornata Internazionale delle Mangrovie come momento di riflessione su un ecosistema la cui sopravvivenza è minacciata dal cambiamento climatico. Voliamo in Trentino, dove il TAR sospende una ordinanza di Fugatti, l'ennesima ordinanza di abbattimento. Dopo che un'orsa aveva protetto i suoi cuccioli in modo aggressivo verso un escursionista, il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha accolto i ricorsi presentati dalle associazioni animaliste EMPA, LAV, LEIDA e OIPA e ha sospeso la seconda ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma Fugatti per l'abbattimento dell'orsa KJ1 fino alla trattazione in sede collegiale il 5 di settembre. Quindi l'orsa è salva fino al 5 settembre, quando si terrà l'udienza collegiale. Ma andiamo a vedere nel merito cosa ha detto il TAR. Scrive infatti la presidente del TAR, Alessandra Farina: resta in ogni caso demandata all'autorità provinciale l'adozione delle misure più adeguate al fine di assicurare l'eventuale captivazione, il costante monitoraggio, le segnalazioni alla popolazione e, non ultima, l'interdizione all'accesso in determinate aree. Le associazioni animaliste esultano perché il Tribunale amministrativo non si è limitato ad accogliere l'istanza di sospensione, ma ha anche ricordato che esistono anche altre metodologie, il radiomarcaggio, la captivazione, le misure, insomma, alternative che la provincia dovrebbe adottare per garantire l'incolumità di residenti e di turisti, come per esempio diffondere adeguate segnalazioni, ma anche, se necessario, interdire le aree a rischio dove si trovano mamme con cuccioli, un argomento questo che le associazioni animaliste propongono da tempo, ma sono rimaste sempre inascoltate. Non la pensano così altri soggetti della provincia autonoma. Ad esempio, il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ha affermato che è forte il disorientamento a fronte di provvedimenti che precludono la possibilità di intervenire con l'unico mezzo che consentirebbe una immediata rimozione, cioè la morte, questa è una nostra aggiunta, di un indiscutibile pericolo per l'incolumità delle persone, cioè l'orsa, e prefigurano soluzioni alternative francamente impraticabili agli occhi di chi amministra le comunità e il Trentino. Ciò che i cittadini legittimamente chiedono alle istituzioni è di salvaguardare e ripristinare la propria libertà di vivere il territorio a fronte della minaccia arrecata dagli orsi problematici e non certo vedere preclusa la possibilità di frequentare, pur con le doverose attenzioni, la montagna e gli spazi aperti. Non possiamo rischiare che le soluzioni emerse in un quadro di leale collaborazione fra istituzioni assumano i contorni dell'insostenibile, quindi una bocciatura completa dei suggerimenti del TAR. Anche la società alpinistica trentina reputa inefficace e improbabile la possibilità di seguire le indicazioni suggerite dal TAR, perché gli orsi hanno grande mobilità, il che rende complesso escludere via via alcune zone dal passaggio umano. parlano, sempre nella società alpinistica, della necessità di mantenere un adeguato livello di accettazione sociale che possa garantire la coesistenza e la conservazione della specie in un territorio con un'elevata antropizzazione come quello del Trentino. Ma, aggiungono, questo sarebbe possibile solo con un lavoro strutturato e a lungo termine. Tra questi interventi, la ricerca scientifica, la comunicazione, la prevenzione, per esempio bidoni anti-orso per rendere inaccessibili i rifiuti, e la legalizzazione dello spray per la difesa personale. La domanda resta questa: quando si comincia? Perché anche Fugatti parla di sparare all'orso, rinchiuderli nella prigione del Casteller per affrontare l'emergenza, ma quello che manca è una politica di più lungo respiro che guardi al futuro e non sembra nemmeno all'orizzonte. Intanto, sempre in Trentino, il 20 luglio, un'orsa femmina e un cucciolo sono stati rinvenuti morti nella Valle dei Laghi, in provincia di Trento. Secondo i tecnici della Forestale Trentina, l'orsa e il cucciolo potrebbero essere stati vittime di un orso maschio, ma cresce anche l'ipotesi di una possibile azione di bracconaggio o un avvelenamento, come successe l'anno scorso per gli orsi MJ5 ed F36, rispettivamente uccisi, il primo a fucilate, la seconda per avvelenamento. Sul nuovo caso di ritrovamento si sono mossi subito gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente, AIDA, che hanno annunciato già nelle prossime ore iniziative per chiedere di conoscere con certezza e in tempi brevi le motivazioni della morte dell'orso e del cucciolo. Abbiamo dubbi sulle cause della morte, scrivono gli animalisti. Occorre un'indagine indipendente per conoscere le vere cause. Crediamo, come prima cosa, visti i precedenti sugli orsi MJ5 ed F36, che a compiere le analisi sia un istituto diverso rispetto a quello del passato. Inoltre, crediamo sia necessaria una seria inchiesta sul bracconaggio in Trentino, perché vi sono in rete gruppi che inneggiano apertamente a compiere questo orrendo reato, in particolare proprio sugli orsi. Insomma, l'atmosfera tra umani e orsi è sempre più tesa in Trentino. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Per la prima notizia andiamo a Parigi, capitale europea che si sta preparando freneticamente a ospitare i Giochi Olimpici del 2024 e che ha per questo anticipato la settimana dell'alta moda. In questa occasione l'organizzazione animalista PETA France, PETA è un acronimo per People for the Ethical Treatment of Animals, ne ha approfittato per proiettare video e messaggi su alcuni dei monumenti più iconici e fotografati della città, tra cui la Tour Eiffel, Piazza Vendôme, il Futur Hotel Louis Vuitton sugli Champs-Élysées. L'obiettivo di PETA è stato quello di mettere sotto accusa il comparto del lusso, in particolare LVMH, che sponsorizza l'evento olimpico, ma che utilizza ancora pelli esotiche come quelle di coccodrilli, serpenti e struzzi. Una di queste proiezioni sui monumenti era proprio rivolta ai partecipanti dell'evento di moda Vogue World di domenica scorsa, tra cui figuravano celebrità e stilisti come Pharrell Williams, direttore creativo maschile del marchio Louis Vuitton, di proprietà di LVMH. La proiezione riportava il messaggio Louis Vuitton Drop Exotic Skins e un filmato riprendeva la macellazione dei coccodrilli, trasmettendo l'idea che torturare gli animali non è né chic né in linea con i valori olimpici, che sono quelli dell'amicizia, del rispetto e della libertà, sempre evidenziati in occasione di queste grandi kermesse sportive. Se la crudeltà estrema nei confronti degli animali fosse uno sport olimpico, il partner premium di Parigi 2024, LVMH, la società madre di Louis Vuitton, Dior e Fendi, potrebbe portare a casa una medaglia d'oro per avere venduto pelli di coccodrilli, serpenti, struzzi e altri animali esotici macellati con violenza. Questa è stata la dichiarazione in un comunicato stampa della vicepresidente della PETA per il Regno Unito e l'Europa. Il mondo ci guarda e i consumatori devono sapere che le Olimpiadi sono finanziate da denaro sporco di sangue. Ogni volta che comprate qualcosa fatto con la pelle di qualcuno, state finanziando un'immensa sofferenza animale. Mentre alcune case di moda si sono mostrate più sensibili e moderne e hanno cambiato la loro politica, altre continuano a usare pelli esotiche. Nel corso degli anni, la PETA ha preso di mira diversi marchi di lusso, tra cui Burberry, che ha vietato l'uso di pelli esotiche nel 2022 dopo una campagna di 7 anni da parte dell'organizzazione animalista, di cui è diventata anche azionista. Ma anche altri marchi come Tommy Hilfiger, Calvin Klein e altri nel 2020, dopo che PETA aveva sollecitato l'azienda a farlo, hanno iniziato a vietare le pelli esotiche nelle loro collezioni. Marc Jacobs, marchio di proprietà di LVMH, ha annunciato a maggio che avrebbe vietato l'uso di pelli di rettile e di struzzo nelle sue collezioni. In vista dei giochi olimpici, l'organizzazione animalista ha chiesto al Comitato Olimpico Internazionale di non accettare la sponsorizzazione di LVMH se l'azienda non avesse accettato di smettere di vendere pellicce e pelli esotiche. In una lettera al presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach, la PETA ha sottolineato come LVMH non abbia agito in modo responsabile e abbia continuato a vendere cappotti di visone e borse di pitone. Uno dei compiti, uno degli obiettivi che Restiamo Animali ha scelto di darsi è fare da sentinella di quei cambiamenti che avvengono nel mondo sociale, culturale, politico e vanno nella direzione di un progressivo superamento dell'antropocentrismo. È questo, a nostro avviso, un passo necessario se vogliamo immaginare un futuro per il pianeta e per la specie umana, che finora si è concepita come signora e dominatrice del mondo, con esiti disastrosi, come ben sappiamo. In questa chiave ci pare opportuno segnalare un'intervista comparsa sul numero 398 di Robinson, l'inserto culturale settimanale del quotidiano La Repubblica. È un'intervista a Shun Umezawa, importante autore di manga. Il titolo è, fra virgolette, "Il manga è diventato antispecista". Parla il grande autore giapponese che nella sua opera si interroga sui temi caldi della contemporaneità, dai diritti degli animali al neodarwinismo. L'ultimo lavoro di Umezawa si intitola Darwin's Incident ed è pubblicato in Italia dall'editore Dinit. L'autore dell'intervista, Alessandro Di Nocera, lo introduce così. Charlie è un ibrido, uno humanzè, metà uomo e metà scimpanzé, scoperto nel corso di un attacco terroristico di un violento gruppo animalista a un oscuro laboratorio di bioscienze. Adottato da una coppia di scienziati, Charlie è chiamato a integrarsi con la comunità umana e non senza notevoli difficoltà. Il giornalista chiede com'è nato questo manga e Umezawa risponde: dal mio interesse per il darwinismo. Darwin's Incident è articolata su tematiche come i diritti degli animali, lo specismo, il veganesimo. Mi sono formato leggendo libri che affrontano questioni etiche, sebbene a livello divulgativo, non accademico. Chiede ancora il giornalista: la visione critica dello specismo è il cuore pulsante della serie. E Umezawa è una parola risalente alla prima metà degli anni 70 che ho appreso grazie ai testi dello psicologo inglese Richard Rider. Inizialmente, quando ne sentivo parlare in relazione ai diritti degli animali, non la prendevo come una cosa seria. Le attribuivo quasi un senso parodistico. Solo in seguito, approfondendo le teorie del neodarwinismo, ho incominciato a riflettere seriamente sulla questione. Le scienze naturali, in maniera generale, mi hanno sempre coinvolto. Mi appassiona la loro connessione con la sociologia politica, in particolare quando filtrate e interpretate dalle teorie liberiste americane. Dice ancora l'intervistatore: di recente Papa Francesco ha ribadito l'idea che l'essere umano deve mantenere un privilegio rispetto al mondo animale. E Umezawa, un'affermazione che affonda le sue radici nel pensiero e nella morale cristiana, dove l'uomo, all'interno del creato, occupa una posizione centrale e gli animali sono al suo servizio. Di conseguenza c'è una distinzione molto netta. Nel pensiero orientale, la divisione fra la razza umana e il resto del regno animale è più morbida. C'è, ma non è così definita come nella tradizione cristiana. Ciò non significa che nella cultura orientale gli animali godano di maggiori diritti, ma la linea di demarcazione è sempre più ambigua. Insomma, un manga da leggere, Darwin's Incident di Shun Umezawa, volume 1, pubblicato da Dinit Manga, nella traduzione di Daniela Pinto. Durante una sosta in Groenlandia, mentre era in missione per intercettare la baleniera giapponese Kanjei Maru, Paul Watson, fondatore di Sea Shepherd e cofondatore di Greenpeace, è stato arrestato. La caccia alle balene è un'attività vietata nella maggior parte del mondo, ma in molti paesi i cacciatori continuano a praticarla. Tra di essi vi è certamente il Giappone, dove la pratica viene vista come una tradizione particolarmente cementificata nella storia. Nel 2016 il Giappone ha fermato l'attività di pesca ad alto mare nell'Antartide, però ha continuato a cacciare balene nelle sue acque territoriali. Contro la pratica della caccia alle balene si sono mossi ambientalisti e attivisti di tutto il mondo, prima di tutti la ONG Sea Shepherd, fondata dallo stesso Paul Watson. Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro, la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero. L'arresto è avvenuto nella mattina di domenica 21 luglio ed è stato effettuato dalla Polizia Federale danese, che ha risposto a un mandato internazionale varato dalle autorità giapponesi. Secondo la fondazione capitano Paul Watson, la cattura dell'attivista non sarebbe un caso e sarebbe avvenuta sulla base di un vecchio avviso rosso emesso dallo stesso Giappone per contrastare gli interventi anticaccia alle balene di Watson in Antartide. Questo sviluppo è stato una sorpresa, sostiene la fondazione, poiché i legali della fondazione avevano riferito che l'avviso rosso era stato ritirato. Nonostante ciò, a detta della stessa fondazione, il Giappone avrebbe reso la notifica riservata per facilitare il viaggio di Paul allo scopo di effettuare un arresto, così da poter riprendere la propria attività di caccia alle balene anche in acque diverse dal proprio territorio. Una caccia che in teoria era ferma dal 2016. L'arresto di Paul Watson è avvenuto a Nuuk, capitale della Groenlandia, quando la polizia federale danese è salita a bordo della barca dell'attivista non appena aveva attraccato. A quanto riporta la fondazione Paul Watson, l'equipaggio si sarebbe fermato per fare rifornimento mentre era in viaggio verso il passaggio a nord-ovest, la rotta navale che collega l'Oceano Atlantico con il Pacifico, nell'ambito di una nuova campagna mirata a intercettare la nuova nave giapponese nel Pacifico settentrionale. La fondazione ritiene che il Giappone abbia intenzione di riprendere l'attività di caccia alle balene anche in acque non territoriali e per tale motivo reputa la riattivazione dell'avviso rosso contro il capitano Watson politicamente motivata. In questo momento Watson risulta sotto custodia ed è sotto processo presso il tribunale distrettuale di Semersuk, a cui la polizia ha avanzato la richiesta di detenzione. Toccherà al Ministero della Giustizia decidere su una sua eventuale estradizione in Giappone. Diffondete questa allarmante notizia e usate l'hashtag Free Paul Watson. Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il nostro validissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni è assente per ferie. Considerata la sua costante devozione alla trasmissione lungo tanti anni, gli abbiamo concesso un periodo di vacanza. E allora, questa settimana, pensiamo noi, dilettanti dei fornelli, a dedicare al capitano Watson una ricetta vegana a tema marino. Le barchette di melanzane vegetariane. Gli ingredienti per 8 persone, come una ciurma, sono 4 melanzane nere lunghe e sottili, 4 patate grandi lesse, 2 cucchiai di formaggio da grattare vegano, lo si trova in ogni supermercato, 2 cucchiai di lievito in scaglie, idem, 8 foglie di menta fresca, 16 pomodori ciliegino, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale fino, peperoncino e pan grattato. Lavate le melanzane e dividetele a metà nel senso della lunghezza, svuotandole della polpa che taglierete a dadini. Ponete le barchette su una leccarda foderata con carta da forno leggermente oliata e fatele cuocere per 20 minuti circa a 180 gradi in modalità statica. Nel frattempo prendete la polpa e ponetela in una padella con olio, spicchio d'aglio e il peperoncino. Lavate anche i pomodorini e aggiungeteli alla polpa. Fate cuocere per 5 minuti. Aggiustate quindi di sale e fate cuocere ancora fino a rendere la polpa molto tenera. A quel punto lasciate intiepidire. Nel frattempo schiacciate le patate lesse e ponetele all'interno di una ciotola. Unite la polpa di melanzana cotta senza l'aglio. Aggiungete il formaggio grattugiato, il lievito, le foglie di menta sminuzzate e aggiustate ancora di sale e mescolate bene il tutto. Oliate ancora un po' l'interno delle barchette e spolverate con il pane grattugiato. Questo serve ad assorbire in cottura eventuali fuoriuscite umide della farcia. E riempitele poi con il composto di patate. Spennellate un po' d'olio in superficie compattando il ripieno. A questo punto tutto è pronto per infornare a 180 gradi per circa 40 minuti. Dopodiché lasciate intiepidire le barchette in forno spento